Siete dei residenti in Campania e vi preparate a festeggiare la Pasqua in maniera più o meno sontuosa? I resti dell'agnello cercate di tenerveli in casa almeno fino a mercoledì e, già che ci siete, se scartate colombe, usate tovagliolini di carta, cambiate pannolini, leggete giornali, svuotate bottiglie, fate la stessa cosa. Ve lo chiede il vice commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Franco Giannini. Appello alla popolazione campana, lanciato ieri da Caserta. In vista delle festività pasquali, sono parole sue, si cerchi di trattenere almeno fino al prossimo mercoledì i rifiuti, soprattutto carte e cartoni da imballaggio. Questo perché la raccolta andrà a ritmo ridotto in quei giorni e si vogliono evitare nuovi accumuli su strade e piazze. Peccato non averci pensato prima. L'emergenza non sarebbe stata così acuta, o almeno i rifiuti non si sarebbero visti, che sembra essere a questo punto la cosa fondamentale. Da mesi raccogliamo le vostre foto dall'emergenza rifiuti, che ci inviate all'indirizzo internet@radio24.it, che pubblichiamo su www.radio24.it. Per questo fine settimana attendiamo quelle che potrete scattare più comodamente dal vostro salotto. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore.